buongiorno. Che quadro esce appunto da queste indagini? Ne esce un quadro molto interessante, e un primo elemento che vorrei sottolineare è che questo quadro conforta il lavoro che per anni, per quasi 10 anni, l'Associazione dei Familiari delle Vittime hanno fatto, e che poi si è concretizzato nel 2011 nel momento in cui veniva depositato il primo dei memoriali dell'Associazione Vittime. Sostanzialmente il quadro che si delinea, diciamo, per macro temi, si può individuare in 3 elementi principali. Uno è il flusso del denaro, seguendo il quale si è arrivati, in base alla ricostruzione che ha fatto la Procura Generale, a individuare dei collegamenti tra la P2 di Licio Gelli e le organizzazioni eversive che operavano sul territorio. In particolare, almeno da quello che si riesce a sapere finora, sarebbe confermato il ruolo che avrebbe avuto il cosiddetto conto Bologna, un conto nella disponibilità di Gelli e di Umberto Ortolani, che era sostanzialmente l'anima finanziaria della P2, da cui partirono nel periodo immediatamente precedente la strage, nelle settimane che precedettero la strage, fino al febbraio del 1981, 15 milioni di dollari destinati a persone od organizzazioni coperti da criptonimi, dai toni anche discretamente evocativi, uno per tutti, conto Bologna. Già i familiari delle vittime nei loro memoriali avevano identificato in Federico Umberto D'Amato, nel Ministro della Difesa, in strutture dello Stato, eventuali potenziali destinatari di quel denaro. Quel documento è importante perché, appunto, si chiama documento Bologna perché contiene un'intestazione, nell'intestazione proprio scritto Bologna, e venne trovato addosso a Gelli quando fu arrestato in Svizzera. Interrogato dai magistrati di Milano che stavano indagando sul del Banco Ambrosiano di Roberto Calvi, lui disse che quel denaro era stato utilizzato per pagare delle sue spese legali. Versione inverosimile, perché il flusso di quel denaro si interrompe nel febbraio del 1981. Ricordiamo che la scoperta della P2 e l'inizio dei veri guai di Gelli inizia un mese più tardi, nel marzo del 1981, quando la famosa perquisizione a Castiglione Fibocchi fa ritrovare le liste della P2. In ciò che emerge dall'indagine portata avanti dalla Procura Generale di Bologna sarebbe anche l'attività preparativa della strage, che risale all'inizio del 1979, un anno non a caso. Iniziano i cosiddetti delitti politici in Sicilia, la situazione internazionale diventa molto tesa e vira progressivamente a destra. Personaggi riconducibili agli apparati americani collaborano con uomini dell'intelligence italiana per manipolare, per cambiare, e ci riusciranno, i risultati elettorali negli Stati Uniti a favore di Reagan, un favore che, insomma, verrà poi ricambiato con l'invito alla cerimonia di insediamento alla Casa Bianca. Torniamo però alla strage, alla stazione di Bologna. Un altro elemento interessante è che ci sono 3 persone viventi che sono state accusate a vario titolo di azioni riconducibili ad attività di depistaggio. Ricordiamolo, il depistaggio è un reato contemplato dal codice penale italiano a partire dal 2016, prima chi si macchiava di condotte del genere veniva accusato di altre fattispecie di reato. Nel 2016 Paolo Bolognesi, il presidente dell'Associazione Vittime del 2 agosto, dell'Unione dei Familiari delle Vittime di Strage, divenuto parlamentare, riesce a portare a compimento questo percorso lunghissimo per l'introduzione di questo reato, ma anche chi è stato accusato di fattispecie diverse come false informazioni ai PM lo ha fatto nell'ultimo periodo, sostanzialmente negli ultimi anni, perché queste condotte non avrebbero potuto essere contestate se determinate azioni fossero state compiute nel 1980, negli anni immediatamente successivi, perché sarebbero ormai ampiamente prescritte. Questo ci dice che, almeno dal punto di vista della ricostruzione dell'accusa, c'è ancora una macchina che si sta muovendo per impedire l'accertamento, il completo accertamento dei fatti. Un ultimo elemento è che nelle carte di cui si sta discutendo nelle ultime 24 ore, la strage alla stazione di Bologna rientra ormai pienamente nel disegno, nel quadro degli anni della strategia della tensione, mentre a lungo si è detto che nel 74 era finito, che tutto quello che era venuto dopo era qualcosa di diverso. Invece chi ha sostenuto la tesi che la strategia della tensione è durata fino fino al 1980, se non oltre e non di poco, oggi trova una conferma delle proprie analisi. Approfitterei delle tue conoscenze per andare a scandagliare anche qualche nome meno noto, diciamo, al grande pubblico, perché sicuramente quello di Licio Gelli lo è. Poi ovviamente tra gli esecutori materiali conosciamo già Mambro, Fioravanti e Ciavardini, certo. Cavallini neo condannato, ma c'è questo Paolo Bellini. Chi è? Paolo Bellini è una figura molto rilevante, proviene dal mondo del neofascismo, ha militato in Guardia Nazionale, che era l'organizzazione di Stefano Delle Chiaie, anche se Delle Chiaie non lo ha conosciuto di persona, e di lui si inizia a parlare in un determinato momento, però sotto falso, utilizzando un altro nome, che era Roberto da Silva. Roberto da Silva viene arrestato ad un certo punto per traffico di opere d'arte rubate, ed è l'unico caso nella storia italiana di un detenuto che riesce a farsi arrestare sotto un nome, un'identità fittizia. Negli anni che seguiranno entrerà nella storia della trattativa Stato-mafia, sarà in contatto con un mafioso che poi si suiciderà in carcere, Antonino Gioè, un suicidio abbastanza anomalo, e accompagnerà insomma tutta una stagione fino ad arrivare ad autoaccusarsi dell'omicidio di Alceste Campanile, un giovane militante di Lotta Continua assassinato nel giugno del 75 a Reggio Emilia, e poi di alcuni delitti di Andrangheta compiuti sempre in Emilia, sempre nel Reggiano, negli anni 90. Il nome di Bellini già era venuto fuori nell'ambito delle indagini sulla strage alla stazione di Bologna. Aveva alloggiato a Bologna a ridosso del 2 agosto 1980, due testimoni lo accusarono già nel corso delle prime indagini, lo identificarono come una persona vista alla stazione di Bologna, e si ipotizzò che potesse aver trasportato l'esplosivo. Insomma, la sua vicenda è molto particolare, addirittura si pensi che c'è un attentato a un treno di 3 anni successivo alla strage alla stazione di Bologna, avviene nel 1983, ed è un attentato all'espresso Palermo-Bologna-Milano, che verrà rivendicato da Ordine Nero ed Ordine Nuovo con la scritta all'interno del foglio di rivendicazione Bellini libero. Le organizzazioni di estrema destra poi smentiranno l'autenticità di questa rivendicazione, però insomma rimane suggestivo il coinvolgimento. Bellini è indubbiamente il più noto dei personaggi che sono stati raggiunti dall'avviso di fine indagine. Un altro si conosceva già, il suo nome era già noto perché era emerso durante il processo Cavallini, quello che è andato a sentenza un mese fa, che è quello di Quintino Spella. Nell'80 era a capo del centro Siste di Padova, e nella ricostruzione del giudice Tamburino, colui che negli anni 70 si occupò, indagò sui progetti eversivi della Rosa dei Venti, Tamburino raccolse nel luglio del 1980, per cui siamo a un mese prima della strage, due informazioni importanti. Innanzitutto che era in progetto, in preparazione, un attentato a un magistrato veneto, che venne individuato poi nel giudice Stitz, colui che era stato tra i primissimi a orientare le indagini verso la pista nera per la strage di Piazza Fontana. E l'altra notizia che Tamburino raccolse era che da ambienti carcerari lui parlò con un detenuto che proveniva dal mondo della destra veneta. Dagli ambienti carcerari appunto emergeva che ai primi di agosto ci sarebbe stato un attentato di cui avrebbero parlato tutti i giornali del mondo. Tamburino fece una nota alla procura di Padova per quanto riguarda l'ipotesi di attentato al giudice Stitz, e parlò di questa notizia non meglio circostanziata di un attentato all'allora comandante dei carabinieri di Padova, che lo indirizzò appunto al generale Spella. A inizio 2019 Spella ha smentito questa ricostruzione di Tamburino e ha continuato a dire che non ci furono 4 incontri, 3 prima della strage e 1 il 6 agosto del 1980 tra il militare e il giudice Tamburino. Per questo è stato indagato per il depistaggio. Giorgio Segatelli, invece un'altra delle 4 persone indagate dalla Procura Generale di Bologna, è un ex carabiniere del nucleo investigativo di Genova. Nella ricostruzione che viene fatta si dice che in previsione prima della strage contattò una donna genovese svedese Mirella Robbio, che era la moglie separanda di un elemento di spicco di ordine nuovo in Liguria, Mauro Meli, e venne chiesto alla donna di riprendere contatti nel mondo della destra ligure per capire se effettivamente si stava preparando un attentato o qualcosa del genere. Dopo la strage, Segatel avrebbe ricontattato Mirella Robbio e le avrebbe detto: hai visto che cosa è successo? Anche questa ricostruzione ad anni di distanza non viene confermata, sa di fatto che il ruolo di Mauro Meli, cioè l'ex marito della signora Robbio, è rilevante. È stato per esempio l'uomo che ha dato ospitalità a Genova a Pierluigi Concultelli, il capo militare di Ordine Nuovo, a ridosso dell'attentato del 1976 che costò la vita a un pubblico ministero romano, il giudice Corsio, che aveva indagato sia su Ordine Nuovo, riuscendo a arrivare a una sentenza di condanna nel 73, in conseguenza della quale Ordine Nuovo era stato sciolto per la ricostituzione del partito fascista, e negli ultimi periodi della sua vita stava anche indagando su un giro di denaro proveniente dai sequestri di persona e che tramite la P2 sarebbe stato riciclato nei casinò della costa azzurra. C'è un ultimo indagato, sì, che è Domenico Catracchia. Esattamente, è un nome interessante perché spunta sia con le Brigate Rosse che con i NAR. Esatto, è un nome che tornerà più volte negli anni. Il suo nome appunto lega, almeno dal punto di vista dei contratti che sottoscrisse, alla storia dei NAR un elemento importante, via Gradoli, che è covo delle Brigate Rosse, insomma, che finisce per avvicinare, non sappiamo ancora se intrecciare, in che modo intrecciare, la storia della strage alla stazione di Bologna con il delitto Moro. E quindi insomma anche questo è un nome molto interessante. Grazie mille per questo quadro, Antonella, perché appunto ci aiuta a capire meglio anche il punto a cui siamo arrivati. Intanto grazie ancora. Grazie, buon lavoro.